Capa capa e capa capa. Chi è avanti? Avanti, chi è? Dria. Cosa ti fa male? È Giulio, è Giulio. Oh, e quella davanti alla stufa, con la sedia a dondolo e la pipa in bocca. E allora, quello lì è vizioso, mi sarà davanti alla stufa a scaldarsi. Ho col sigaro in bocca. Luca, cosa mi dici dell'accordatore A200? È un accordatore automatico, lo conosci? Non l'ho mai avuto, però so che è buono. Gira, me lo compro. Cosa devi accordare? Non ho già un preso. È sempre meglio averlo. Ricordo di Roberta. Se devi accordare qualche antenna, qualche cosa. Devo dare davvero le cose proprio. Ma intanto la Game Master non a meno che non devi accordare quella. AT100, sì. Mi sembra che è della Yaris. Oh signore, cazzo, l'MC60 l'ho messo in pensione, andava male, dimmi tu. Io la mattina sono uscito fuori dal balcone. Andava meglio, gatto, chi su gavolo di microfono, che vaggio. Quella V508 che è l'MC60, te l'immagini. Tu fai come ti ho detto io. E la mamma mi dorme a Repubblica. E a fare da fare il grugoso, grubedale ci dice. E la mamma mi dorme a Repubblica. Sì, già lo so, che pompa così. Ma devi comprarti l'equalizzatore, lo devi attaccare lì, un casotto. No, assolutamente no, devi comprarti su grubedale. E buco. E basta, mi. Il pedale. Ma non era attaccato all'equalizzatore quello che avevi tu? No, io usavo o il pedale o il mixer, o uno o l'altro. Aspetta che ti mando la foto. Sì, cioè il mixer volevo dire, non l'equalizzatore, il mixer. Io usavo col 140 e mi dicevano che era il 440. Vabbè, c'è bisogno solo del pedale, tu stai dicendo. Ma sì, aspetta, sto cercando il coso da mandarti la foto. Sì. Guardati quello che ti ho mandato. Un secondo, Natalia. Quello lì usavi? Natalia, rispondimi su WhatsApp però, non qua. Attenzione 10, cambio. Dove vuoi andare, dillo a me. Qui biondo, è bella stare. Tutto a posto, sì. Ehi, tutto a posto, è da mettere a posto. Importante che ci sia la salute, dopo. Dai, tu affettando stavi? Eh? Ho detto tu affettando stavi. No, adesso me ne sono alzato. Adesso mi metto a mangiare qualcosa. Stanotte c'è il servizio, così è. No, ora servizio. Sono le malattie, sono da ieri. Cazzo, dolore alle costole. Questo gatto, l'influenza l'ha mitigato. Guarda, anche la... Il cazzo va un vento che si piace di Lulu. Per carità. Vento, freddo, so purtroppo cazzo fende fredda davvero. Stamattina sono uscito io cazzo, ho dovuto andare a farmi rise e avevo l'appuntamento e sono dovuto uscire per forza per un freddo cazzo. Prima ho bruciato il cane e da poi sono andato a fare i suoi documenti. Ci sono anche dei fiori la notte ci sono 4-5 gradi la notte. Gesù Cristo mio, ero grido, e come cavolo si fa? Senza il cazzo capiotto, senza un cazzo, dobbiamo mettere la corrente, senza luce, ma ve la pigliate le luci. Allora, se va via la corrente e il gabbiotto, una ciuffa di buti fumì, cazzo se no, non morire di freddo in chili. No, glielo abbiamo detto, se non mettete queste cose qua, ve lo fate voi servizio, fa la gente. L'aggiornamento di WhatsApp. Ah? Non ho capito, Natale. Ehi, ho detto. È un macello, ragazzi. Aspetta un attimo, Manuele. Ok, adesso lo devo fare. E chi è? Natale. Ehi, dimmi, Manuele. Antonio sono, Emanuele. Cosa? Antonio sono. Sì, ma c'è pure Emanuele, mi. Cappa, ciao Emanuele, buonasera. Emanuele, cappa cappa. Mi hai visto un migliore, se prendi con Ruggirello, se fa bomba. Ora, chicos. Che avanti? Avanti su 10. Non molla un colpo, sempre ultimamente. Quella! Attento, compugno! Che avanti! Ciao Gianni, all'ascolto io. Ero già all'ascolto, ce l'avevo. Avanti, una cosa come un porro, ho già. Sì, mi stavo spassolando un po' l'apparecchio, dai, che c'è un po' di polvere adesso. Ho detto, c'è una cosa buona in forma. E non c'è porcetta. No, degli acqui, una mi ha fermata da solo, mamma mia. Io, cioè, non, mamma mia, guarda. Un buona è quella che faccio io a casa. Altrui mi sai con parecchie. Ma sta al forno? No, l'acqua è lì. Ah, buona. Anche ho visto un filmato su internet, questo qui ha messo la pasta al forno a fare. E poi la tartiglia la si è spaccata la tartiglia e si è fatta tutto. Ah, dopo che la vittura ha esitato di cucinare. Può succedere. Calore l'ha fatta spaccare. Poi c'era l'idraulico, se l'ha messo a casa, per carità. Ma già, ancora non vedrà che punto era, ancora un po' deve stare. E dimmi la quando è pronta che passa a prenderla. Aiuto. Ah, sto scherzando. Sto scherzando, mangiatela voi tranquilli. Tua moglie le mangia. Sì che la mangia. Ah, io adesso un po' di cocca, mi basta farà. Ne prepariamo pure un'altra, ne prepariamo e via. Ti ringrazio, ma devo portare giù il cane, devo fare altra roba adesso. Poi c'è un problema, è venuto l'idraulico per stasarmi il lavandino perché era tasato. Adesso c'è una perdita sotto, sicuramente come ha dato la pompata ha fatto qualche altro danno, ma c'è qualche cosa che perde. Un minciano, chissà cosa ha combinato. Come è andata la pompata per sbloccarlo, me l'ha sbloccato, però niente, ho mia praticamente l'acqua da sotto, come ha perso l'acqua quando ha tolto il tappo, l'ha aggiunto la vaccinella, l'ha pulsata e ha fatto fare tutta la vasotta. Beh, mica dimentico con quei cavolo di cose, prima si guarda come deve, cioè se si può rimediare, se non si può rimediare allora così quello lì, però c'è anche il coso sotto, come si dice, c'è una specie di, vorrebbe essere sporco. se non ci può rimediare la compri, ma quella è l'ultima spiaggia proprio, perché spacca i tubi. No, non ce n'era sopra, era sotto nello scarico, c'era anche un bel tappo, se uno vede l'atmosfera è per tutto. Nello scarico? Lo scarico dello smonte? Lo scarico quello che va al water. Addirittura. E allora, se te sapisci. E perché non è fatta bene la cosa, se no non si tassa mai. Magari ha detto, io guarda che i piatti prima di lavare mi passo lo scottes, le tegabbi, i piatti, mi passo lo scottes e li faccio quasi lucidi, gli do solo una passata con detersivo per, proprio per toglierli l'ultimo pezzo, ma la roba rossa le raccoglie. Il detersivo è detersivo. Detersivo che si accumula con il grasso, anche se ce n'è poco, magari un po' ti capita sempre, anche se li pulisci, qualche cosa rimane sempre di untuoso, capito? Ogni tanto a me mi tocca pulire il sifone di sotto. Eia, quando si tasa quello, ma se poi si tasa lo scarico devi fare la stessa cosa. No, io so devi pulirlo. No, vabbè, il sifone già è facile, come lo vedi, lo apri a mano il sifone. Oh, che strano, cazzo, sono quasi di 7, cazzo, doveva venire mia sorella, invece ancora non si è vista. Mi sto telefonando, non mi risponde. Ma da dove al sapere? Magari c'è il telefono scarico. No, telefonato anche a lui e te. Dai, non è successo nulla, magari non ti sento, non prende in quel punto, perché da Ubia ci sono zone che sono d'ombra. No, squilla libero, io ci vado a vedere se è pronta. Ma quei bambini dovevano venire? Con le bambine si è quasi pronta la poina. Allora mi la bocca, la bocca 30 euro, la taglio e la lascio lì. Devo venire con le bambine sì, mi la metto. Aspetta un attimo. Ok, mi ha fatto spaventare, stanno arrivando, stanno. Va bene, dai. Però se deve essere successo lì. Cappa. Ora ne ho altri 4 minuti, li do alla poina ed è pronta. Pronta a mangiare. Ah, siete tutti in greffa a mangiare? Non lo so, se ne vogliamo un pezzo, io lo so. Va bene, tanto allora ti lascio, se ci sono già, sono arrivati. Ancora non sono arrivati, sono con il capolandiglia. Ehi, ciao, vedi. Vabbè, quindi sto facendo... così, E va bene, tu dai. Ma mai la di salvare, se no c'è la fredda, vai. Come è uscita, bella? Bella, ti mando la foto? E manda. Bella dorata, certo, ma davvero però. Ma che non ha poi nei, vuoi? Vuoi, a poi mi sta chiamando Sara. Che va? Ciao a tutti, ci sentiamo, dai, buona serata. Ora. Faccia loro.